anche Berlusconi sia trattato uguale a tutti il referendum, cioè che sia solo la Corte a decidere. Lei sa che gli italiani col referendum ci azzeccano poco, se uso un suo verbo, nel senso. Mi pare non, che non vanno mai votando. In realtà in passato ci hanno azzeccato molto. Poi è in passato. Vede, il fatto che c'è un diritto costituzionale che prevede che gli italiani possano esprimersi, per esempio, perché vorrei che gli italiani potessero sapere che se ne faranno 3 di referendum tutti insieme in un solo giorno, e che non si spenderebbe una lira, basta fissarlo il giorno in cui si fanno anche le elezioni, per esempio quelle amministrative di maggio. E in questi 3 referendum noi abbiamo chiesto 3 cose agli italiani: primo, volete le centrali nucleari o volete la produzione di energie alternative? Io sono contro le centrali nucleari perché ritengo che fanno male e costano troppo. Secondo, volete che l'acqua la possano utilizzare, la possono bere soltanto quelli che hanno i soldi per pagarlo, o almeno l'acqua e l'aria lo possono bere tutti quanti? E gli italiani è bene che si esprimano su questo. Terzo, volete che tutti i cittadini si riguardano di fronte alla legge, o volete che uno che, siccome fa il ministro, si alza la mattina e dice: sai che dico? Che io di fronte alla legge non voglio rispondere. Questi sono i 3 referendum. Senta, ma le chiedo, secondo lei le elezioni sono più vicine o più lontane dopo questo legittimo impedimento semi bocciato? Io, al di là del legittimo impedimento bocciato o meno, ritengo che alle elezioni prima si vada e meglio è, e mi sto lavorando in questo senso, perché avere 2-3 parlamentari in più non ci fai niente, perché non hai una maggioranza politica, e non avendo una maggioranza politica ogni mattina non riesci mai a fare un provvedimento, perché non sai se tutti possono essere lì presenti, soprattutto se quella mattina si sono venduti più di qua e più di là. Questo vale sia per Berlusconi sia per un eventuale governo anti-Berlusconi, perché se la maggioranza ballerina si regge sul venduto di turno, voi capite che non siamo più davanti a un Parlamento credibile. Prima si va all'elezione, meglio è. Due, per me. 2 o 3 voti, 2 sono quelli di Scilipoti e Razzi, voglio ricordare, suoi ex. Scilipoti, Razzi, Carearo e quant'altro. Il problema qual è? Che Scilipoti e Razzi erano suoi, ecco. Scilipoti e Razzi sono miei, altri 40 sono di altri. Che ragionamento sono questi? Il problema, io ritengo che una maggioranza basata solo su 2-3 numeri di differenza, vorrei far capire a chi si ascolta che sul voto di fiducia, per arrivare a quei 2-3 voti di preferenza, si è votato pure lui Berlusconi, si sono votati pure i ministri, anche questa è un'anomalia, cioè uno si dà la fiducia a se stesso, si guarda allo specchio e si vota da solo. Allora, però, siccome tutte le mattine in Parlamento bisogna essere presenti poi per votare le singole leggi, i singoli provvedimenti, non è che tutto il governo tutte le mattine sta in Parlamento. Sì, no, ma è chiaro, c'è un problema. Allora, la maggioranza oggettivo. Politica non c'è, e siccome non c'è la maggioranza politica, c'è un solo modo per continuare a far vivere questo governo: non fare nulla. Ma ai cittadini interessa mantenere un governo che non può fare nulla, e viceversa, se cade questo governo interessa avere un altro governo che non può fare nulla. Qualcuno dice: ma c'è troppo crisi in giro. Ma proprio perché c'è la crisi bisogna affrontarla. Ma adesso arrivano i responsabili di Pietro, questi 20 che puntelleranno la maggioranza. I responsabili del fine mese, cioè quelli che non vogliono andare a casa, perché è chiaro che se si va a casa una buona parte di questi parlamentari dovrà andare a casa, proprio perché è evidente che chi si è venduto per 30 denari non sarà ricandidato, e allora va in cerca di qualcuno che gli rioffre la candidatura o che quantomeno gli permette di restare lì ancora a vivacchiare. Ma proprio perché ci dobbiamo liberare di queste scorie, di questi approfittatori, di queste persone che stanno in Parlamento soltanto per pensare al loro fine mese e non per pensare agli italiani, meglio è. Senta, oggi si apre anche per l'Italia dei Valori l'esecutivo nazionale, 2 giorni. Lei è pronto, per esempio, nel caso Scilipoti e Razzi, evidentemente sono state fatte delle scelte di persone che poi non sono state fedeli al mandato, insomma al voto del partito, a dire mea culpa, ho sbagliato? Assolutamente no, io in questi dieci anni ho dovuto candidare circa 40.000 persone, io avrò sbagliato 4, 40, sfido chiunque a saper fare di meglio. Se c'è un traditore, la colpa non è del tradito, la colpa è del traditore. Non vorrei adesso fare la figura del cornuto e mazziato. Però anche sceglierli. Se potessimo tutti scegliere senza sbagliare, non esisterebbe l'istituto del divorzio, non esisterebbe l'istituto della separazione. Che ragionamento sono questi? Con il giorno dopo, dopo che si è divorziata da sua moglie, se si guarda allo specchio e dice: se avessi scelto diversamente, ma questo cosa vuol dire? Se c'è una persona che tradisce, incolpare il tradito mi pare un po' un'operazione veramente però, che non ha né capo né voglio cosa. Dire, ma almeno le brucerà il fatto che per se ci fossero stati quei due voti dall'altra parte, la fiducia non ci sarebbe stata. Ma non diciamo stupidaggini, innanzitutto non è vero. Due voti di qua. In secondo luogo il problema non è quei due, e in Parlamento si è avuto un travaso di persone che sono andate da una parte all'altra. Io vorrei una regola che ci fosse, che quando una persona tradisce il mandato, questa persona debba essere dichiarata decaduta dal Parlamento, decaduta dal Consiglio Comunale. Cioè l'idea è che una persona prende il voto dagli elettori in nome di un'idea e poi si venda all'altro. Questo è, in termini politici, dovrebbe fare la fine di Giuda. Un albero d'olivo. La ringrazio, buona giornata. Ovviamente allora, il comitato, l'esecutivo nazionale oggi, Antonio Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Allora, il traffico è più avanti. Dobbiamo andare a pubblicità e meteo. E poi parliamo della tassa sui turisti, perché dopo Roma il federalismo fiscale, il federalismo municipale prevede molto probabilmente la possibilità di dare a tutti i comuni la possibilità di introdurre, come si fa in molte città turistiche del mondo, Amsterdam, New York, a Berlino per le cure termali, in Spagna, Madrid, a Barcellona, cioè uno va in albergo e paga un di più perché è una città turistica e quei soldi vengono utilizzati per fornire i servizi ai turisti, la tassa sui turisti, che ne pensate? 800 24 00 24, se volete intervenire votate su radio24.it tra poco. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:34 minuti. Allora, la tassa sui turisti o la tassa di scopo sui turisti, come a Roma, che da dove in vigore dal 1 gennaio si paga un di più per chi sta in albergo in base alle stelle dell'albergo in cui si alloggia. Che ne pensate? È una tassa giusta? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È perché è un'ipotesi concreta nel prossimo decreto per il federalismo fiscale. C'è l'ipotesi che tutti i comuni turistici immagino, possano introdurre questa tassa di scopo. Il turista va lì e paga un euro in più, che ne so, se sta in un albergo, come succede ad Amsterdam, come succede a Berlino, come succede a New York, a Parigi, a Madrid, come succede in varie parti del mondo, perché lì così si sovvenziona il turismo. Che ne pensate? Siete spaccati? Il 51% di voi però la dice di sì. Intanto vorrò chiederlo a un sindaco, Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. È presidente nazionale anche di Lega Autonomie. Lo vorrò chiedere anche ai consumatori, Paolo Martinello, Altro Consumo, buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Buongiorno. Così come un economista, cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni, insegna a Siena, il professor Carlo Lottieri. Ben ritrovato, professore. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Senta, sindaco, parto da lei perché lei è quello favorevole. Dice sì, si spende anche Lega Autonomie da un po' di tempo a dire bisogna avere questa tassa. Tassa già è un nome che gli italiani, no? Posso balzano. Perché, sindaco? Non va bene, messa così, tassa, già molti dicono un'altra tassa. E perché ci vuole? Ci vuole perché c'è una criticità molto grave delle città d'arte, delle città di grande turismo, che di solito sono anche città di grandi servizi, ecco, a parte la capitale, ma poi si parla di città anche più piccole che hanno una dimensione metropolitana per i servizi che rendono. Faccio per dire i numeri della mia città, così si capisce. Noi abbiamo 3 milioni di biglietti staccati sulla Piazza dei Miracoli, sotto la torre, per forse il triplo di turisti che si concentrano lì, però abbiamo anche un litorale, un parco, le terme, e poi abbiamo un aeroporto con 4 milioni di passeggeri, una stazione ferroviaria con 18 milioni, un ospedale, un policlinico diciamo di alta specializzazione con 7 milioni l'anno di. E quindi una città così, che ha 91.000 residenti, produce ogni anno regolarmente rifiuti per 150.000. Ecco, ditemi voi già come i rifiuti, cioè come una tassa per aiutare a smaltire i rifiuti che i turisti producono. I rifiuti sono un problema, la consumazione delle strade o il dissesto dei marciapiedi ne sono altro, è grave in tutte le città, il fenomeno delle buche, come si sa, affligge tutte le città, Roma, Firenze, Pisa, e quindi io credo che una tassa di scopo, una piccola tassa di soggiorno, io ho detto anche solo un euro al giorno, a noi basterebbe, finalizzata a fare interventi di cura delle aree più stressate, di promozione del turismo, di miglioramento dell'immagine delle città. Dice, è un sacrificio che si può fare. Insomma, lei dice... Io credo che non crei un dissesto per le aziende né un allontanamento dei turisti. Poi se si fa in tutte le altre città europee o nella stragrande maggioranza di queste città. Sì, in grandi città si fa. Vediamo, per esempio, i consumatori sono, immagino, contrari, insomma, perché vedono questo balzello nuovo. Però Paolo Martinello, una messa così, c'è cioè una tassa di scopo, uno va a, non so, Venezia anche si batte molto per questo. Ci sono tanti scopi nobili e giusti, come quelli che citava il sindaco, e tante cose importanti che i comuni e le municipalità devono fare. Il problema è come finanziarle. La tecnica fiscale, finanziaria, secondo me è sbagliata la logica che sta dietro questa tassa. Bisognerebbe cominciare a fare i conti di quanto in questo modo aumenterà il costo finale dei servizi, e dubito che l'aumento sarà solo pari all'euro al giorno, perché sappiamo che il meccanismo poi si riverbera a catena. In Italia tutto quello che è erogazione di servizi e distribuzione di prodotti risente sempre molto negativamente di qualunque variazione di prezzo, anche minima, per cui è probabile ed è possibile che poi il costo finale sia più elevato per il consumatore, per il turista che paga i servizi alberghieri, museali, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe che calcolare quanto questo aumento finale poi finisce per deprimere l'afflusso. Qui parliamo di un euro, ma perché può voler dire anche 3 euro, può voler dire una tassa applicata non solo sugli alberghi ma anche su altri servizi turistici, vuol dire che il soggiorno costerà alla fine di più, quanto lo vedremo, ma sicuramente di più, e quindi alla fine probabilmente, secondo una logica banale di mercato, forse anche addirittura meno turisti o meno servizi acquistati dai turisti, che vuol dire meno tasse pagate dagli erogatori dei servizi. Alla fine della fiera poi c'è il risultato contrario, sarà poi tutto da verificare. Ma no, tra l'altro c'è dire che poi molti italiani, anche gli ascoltatori che ci mandano gli sms al 349-238-6666, mostrano il classico scetticismo che voglio girare al professor Lottieri. Cioè lo scetticismo è certo, all'estero, ad Amsterdam, a New York, a Barcellona, sicuramente quelle tasse sono veramente di scopo e quindi vengono poi reinvestite nel settore per il quale vengono raccolte, diciamo, il turismo. In Italia invece i comuni li utilizzerebbero chiaramente per fare cassa. Le chiedo se questo scetticismo è, secondo lei, legittimo, professor Lottieri, e che ne pensa in sé dell'idea di una tassa. Sì, penso che questo scetticismo sia legittimo, perché il problema di fondo, a mio parere, è che da un lato è necessario ridurre la pressione fiscale. Noi abbiamo la leadership mondiale ormai in questo ambito, e questo sta deprimendo tantissimo la nostra economia. Tutte le vicende di Torino di queste ore sono in larga misura legate anche a un'economia che non funziona a causa di una pressione fiscale esagerata. Ma al tempo stesso non abbiamo bisogno, ecco lo scetticismo dei nostri ascoltatori, che gli enti locali, le regioni funzionino meglio, e per funzionare meglio c'è bisogno di responsabilizzazione. La strada federale, cioè dire ad ogni comune tu ti finanzi con i tuoi tributi, scegli tu se vuoi introdurre o no questa tassa, scegli tu l'entità di questa tassa e poi ne rispondi di fronte ai tuoi cittadini, anche perché il comune vicino fa una scelta diversa, e quindi ci sarà anche appunto questo tipo di pressione, questo tipo di meccanismo di ricerca e soluzioni migliori. Credo che questa sia una cosa interessante. Quindi, a mio parere, questa imposta non deve assolutamente far aumentare il carico fiscale, cioè deve essere accompagnata dalla riduzione di altri tributi, questo è un punto cruciale, ma se dà più autonomia di scelta ai comuni e li mette in concorrenza fra di loro, cioè crea veramente un federalismo competitivo, questo può essere utile. Quindi il professor Lottieri, che non è totalmente contrario a questa tassa, è già una notizia, no? Il professor Lottieri che non è contrario a una tassa. Io sono d'accordo col professore. Beh, non proprio così, sono contrario, ma nel realismo, diciamo, che ci deve caratterizzare, è meglio, come dire, che le tasse siano locali, sì, e che i sindaci, ad esempio, debbano rispondere di fronte ai loro elettori, piuttosto che le tasse nazionali e, come dire, una grande redistribuzione dal centro alla periferia. Sindaco Filippeschi, sentiamo dire essere d'accordo con questa posizione. Io sono d'accordo con il professore. Certamente si possono anche dare servizi in più, no? E quindi giustificare anche un prelievo ulteriore. Ma anche se si lasciassero i servizi come sono, noi avremmo una compensazione molto importante che ci consentirebbe di dare respiro ai nostri bilanci. Io penso che finalizzando con rigore le risorse, qui bisogna fare affidarsi, anche perché non credo che ci sia stata amministrazione pubblica che abbia funzionato negli ultimi 15 anni meglio di una parte importante dei comuni e delle città, e anche delle città d'arte di cui si parla, no? Il consenso che hanno avuto o che hanno ancora i sindaci è dovuto anche a politiche di responsabilità. Ecco, ci abbiamo messo la faccia di fronte alle scelte che facciamo, di fronte ai cittadini, e questo può essere, questo prestigio, diciamo, che spero non sia residuale, perché sì, con la politica messa così capisco, no, che viene meno anche il prestigio dei sindaci alla fine, può essere messo a favore di provvedimenti di carattere federalista come questo, che sono giocati secondo la nostra responsabilità. Del resto le tasse di scopo poi servono anche a fare altro. Io sono gemellato con la città di Angers, faccio un esempio concreto, e il sindaco di Angers ha giocato la sua campagna elettorale, l'ha vinta, pur di poco, su una tassa di scopo per fare una tranvia, e la tranvia la sta facendo. Ma devo dire che, per esempio, un ascoltatore ci manda un sms a dire: ho pagato ad Amsterdam 120 euro per tre notti, ma ero in una suite da 1200 euro, cioè il 10%, 1200 euro a notte. In realtà mi risulta sia il 5% la city tax ad Amsterdam. Ecco, per molti questo fa perdere turisti. Voglio sentire intanto un ascoltatore, Maurizio da Firenze, che ci ha chiamato all'800240024. Maurizio, lei che dice? Firenze, una delle città, sì, pronto, buongiorno. Una delle città maggiormente interessate, il sindaco Renzi la vuole questa tassa, Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono di Firenze. Ma sono completamente contrario a questo tipo di tasse, perché mi sembra un'ennesima forma di accanimento su una cosa che va premiata, il turismo. Quindi perché rifarsi con quell'euro sul turismo invece rifarsi su chi ce l'ha i soldi? Ci sono Maurizio, mi scusi, ma a New York s'accaniscono, a New York ci sono le tasse, la hotel tax, ad Amsterdam si accaniscono sui turisti, a Berlino si accaniscono, cioè, secondo me, in queste città mondiali. Non sia sempre un modello, non, l'America o Amsterdam non è sempre un modello da seguire, perché se aumenta la tassa sul turista e ci sta che il commerciante aumenti anche lui, quindi mi sembra un cane che si morde la coda. Mentre siccome vanno via sempre più posti di ritrovo, circolini, arci o case del popolo, e vengono rimpiazzate da banche, istituti assicurativi oppure di credito. Vabbè, lei ce l'ha con quelli. Tassiamo quelli. Cioè banche, noi turisti, ma le banche, le assicurazioni. Va bene, Maurizio, devo andare a dare le informazioni sul traffico, poi ripartiamo. Io sono o blanco o nero. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È salita al 52%, un punto percentuale in più la percentuale di chi si dice favorevole a una tassa di scopo sui turisti. Sentiamo Giovanni da Genova, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Ascolti, allora, secondo me il problema è questo. Io tutto sommato sono favorevole sulla tassa per i beni culturali, tanto abbiamo visto che è anche una cosa bipartisan, perché Renzi a Firenze vuole mettere questa tassa, la vogliono mettere a Roma, la metteranno un po' in tutte le città d'arte che a Roma c'è già dal 1 gennaio, appunto. Quindi voglio dire, la tassa di per sé non fa piacere a nessuno pagarla, però il problema grave è questo: sarà una tassa che sarà utilizzata realmente di scopo, quello che abbiamo detto. Ecco, in Italia purtroppo vediamo che ogni volta mettono le tasse, le mettono, e poi noi restiamo sempre con code davanti a tutte notte a Roma, e ci sono code dappertutto. Vabbè, che c'entrano le code adesso? Deve essere utilizzato per il turismo, poi la coda, insomma, per è una il cosa turismo, che... vabbè. Esatto, per il turismo, ecco, voglio dire, ma purtroppo qui il problema è che queste tasse, come al solito, non si sa dove finiscono. Ma questo d'accordo, però Giovanni, adesso non c'è neanche la riprova, anche perché è partita a gennaio, siamo ancora a gennaio, è partita da 2 settimane la tassa a Roma. Però Paolo Martinello, secondo lei a Roma come sta funzionando? Io non ho sentito grandissimi lamentele per ora, meno che... Sì, a dir la verità è ancora un po' presto per dirlo, ma dalle prime cose che abbiamo letto pare che ci siano grossi problemi, nel momento dell'esazione, perché addirittura poi c'è anche è perché la gente non lo sa, e c'è il problema del modo come vengono introdotte le tasse. Allora questa tassa Roma ha colpito questo, i servizi soprattutto alberghieri a partire dal 1 gennaio, e ha costretto le reception degli hotel a trasformarsi in esattori nei confronti di turisti evidentemente sorpresi, per non dire beh, quello, se, quello sì sicuramente diranno quindi... ma che è sta tassa, cioè... che tra l'altro voglio dire questo è un aspetto se vogliamo organizzativo, però anche questo è un po' sintomatico dell'approssimazione con cui vengono prese queste misure, perché è evidente che molte persone si sono rifiutate di pagarlo, avevano già concordato, perché Amsterdam, New York, parliamo di casi in cui c'è una tassa inclusa nel prezzo dell'albergo, sì. Qui parliamo di una tassa che si aggiungerebbe, che nessun albergo ovviamente aveva messo nei suoi tariffari prima del 1 gennaio, e quindi questo ha creato una proteste e problemi che probabilmente sono costati molto più dell'euro, perché il tempo che hanno perso gli albergatori. Voglio difendere gli albergatori, ma capisco il problema organizzativo che questo ha creato. No, ma è chiaro, perché il massimo, da non seguire, il massimo che uno possa pagare è, credo, a Roma 30 euro, se sta 15 giorni in un hotel a 5 stelle, insomma. Poi magari a volte sono tasse di 2-3 euro, stare a questionare per 2 o 3 euro, però professor Lottieri, ha capito, forse è una questione anche di cultura, cioè se io vado negli Stati Uniti so già che se vado anche al ristorante c'è la tassa, il servizio pagato, me l'aspetto, mentre in Italia è stata così, è piombata sulle reception degli alberghi per ora di Roma, e la gente se la ritrova lì. Questo è anche forse il problema, professore. Certo, un po' in questo. Poi c'è anche un'altra cosa, che questa per ora è venuta ad aggiungersi alle altre tasse, e le aziende del turismo chiaramente subiscono quindi questa cosa. Questo non è giusto, lo dicevo all'inizio, le tasse devono ridursi, essere ridotte, i comuni devono, su questo non sono d'accordo col sindaco di Pisa, che siano gestiti bene, sono gestiti molto male in Italia, sprecano tanti soldi, e quindi devono assolutamente anche loro ridurre le loro attività, le loro uscite. Detto questo, è bene che si finanzino quanto più possibile contributi loro e che ne rispondano di fronte ai cittadini. Quindi noi vedremo gli effetti di questa autonomia, se mai si svilupperà davvero nel tempo, attraverso un meccanismo di responsabilizzazione. Le tasse, se ridotte, devono essere, come dire, in capo a entità autonome che le gestiscono liberamente. Sentiamo Andrea da Roma che ci ha chiamato, buongiorno. Buongiorno. Laddove c'è la tassa dal 1 gennaio, esatto. 82 milioni di euro dovrebbe portare nelle casse del comune. Sarà contento lei, Andrea? Sarà contento il comune. Beh, anche lei immagino, no? se gli arriveranno qualche servizio in più. No, io pongo un problema che è solo apparentemente provocatorio, ma in realtà è uno dei paradossi che oramai si determinano col nostro sistema fiscale. Fra fiscalità generale e fiscalità di scopo, fiscalità diretta e indiretta, il risultato è che il saldo netto aumenta sempre. Se io pago una tassa di soggiorno, che come diceva il sindaco di Pisa, paga i servizi comunali dove soggiorno, con la ricevuta ottengo uno sconto sulle mie tasse dove risiedo? Ovviamente no. No. Allora, la doppia imposizione, che è un paradosso, mi rendo conto, ma il risultato è che il saldo netto della comunità italiana che paga aumenta sempre. Gli alberghi già pagano l'ICI, che è un'imposta indiretta sull'esercizio che si fa dell'immobile. Io pago l'ICI nel comune dove posso avere una seconda casa. Allora, come dicono gli americani, visto che citiamo gli Stati Uniti, tassazione sì, con rappresentatività però. Io pago le tasse dove vado a soggiornare, ma non eleggo nessuno. Che vuole fare? Vuole avere il diritto di eleggere il sindaco di Pisa se va a Pisa a vedere la torre? No. Sulla raccolta di un sacchetto di spazzatura, chiunque la paghi, italiano, straniero, turista, soggiornante, residente, passeggero degli autobus, sia una, e con quell'euro il sindaco gestisca questa spazzatura. Sindaco Filippeschi, sindaco di Pisa, ha sentito il problema di Andrea da Roma, che viene a Pisa, paga e poi dopo paga anche nella sua città, quindi c'è un problema di doppia imposizione, c'è un problema di... Se viene a Pisa, che è città di grande turismo, deve farsi carico spese che tutta la comunità, con la fiscalità generale fino ad oggi, si sobbarca. Ma glielo dica, sindaco, perché la torre non è di Pisa, è di tutti, è dell'umanità, è un bene di tutti. Mi pare abbastanza evidente. Pensate che dalla Piazza dei Miracoli il comune di Pisa non prende un euro, perché tutto ciò che viene dai biglietti, da quelle presenze, va alla fabbriceria, all'opera del primaziale, si chiama così, che cura i monumenti, che ha consolidato la torre, che restaura gli affreschi e via dicendo. Io però devo curare tutto l'intorno. Una zona dove arrivano 150.000 pullman, non so, cioè, numeri incredibili, no? Dove fare solo la manutenzione è molto difficile, e difatti l'accoglienza dei turisti è assolutamente insoddisfacente, secondo me, fino ad oggi. Ma per fare scelte ho bisogno di risorse finalizzate, altrimenti le devo togliere ad altri servizi magari essenziali, e non sono d'accordo col professore. Guardate che i comuni, è vero, ci sono anche isole di spreco, difficoltà, il paese è fatto, come si sa, in modi assai differenti, ma i comuni sono davvero le amministrazioni dove si sono fatte riforme organizzative e anche risparmi in questi anni. Se fosse fatto al centro quello che si è fatto nei comuni, o nei comuni virtuosi, e non sono pochi, il paese sarebbe un altro paese. Io non lo so se Martinello, no, non credo che il fronte proposto dal nostro ascoltatore, cioè vado a Pisa o a Venezia e pago lì, però non ho neanche il diritto di eleggere nessuno, certo era un po' una provocazione, o pago le doppie tasse, no, possa essere un fronte di rivendicazione da parte dei consumatori, non credo. No, non credo neanche io, però attenzione, dunque, questo discorso del sindaco non mi convince per nulla. Cosa vuol dire che Piazza dei Miracoli non rende nulla al comune? Piazza dei Miracoli è l'attrazione principale turistica di Pisa. No, migliaia di persone vengono tutti i giorni, mangiano nei ristoranti, vanno negli alberghi, pagano i biglietti d'ingresso nei musei, e sono attività tassate in via diretta che comportano. È interessante, cioè io capisco. Allora mettiamo i dazi, allora mettiamo dei caselli per entrare nelle città d'arte, nelle città turistiche. O chiunque entra e non è residente paga una tassa un di fiorino, cioè, un torniamo fiorino al Medioevo, torniamo allora al fiorino, infatti, un fiorino, cioè sindaco, quello scopo va bene per fare la metropolitana, ha ragione il sindaco di Parigi o il sindaco francese, per costruire un'opera, per un evento straordinario, per una calamità naturale, per costruire un'opera eccezionale c'è la tassa di scopo, ci tassiamo tutti di un euro per mettere lì i soldi e vediamo dove vanno a finire, non per il finanziamento di attività economiche normali e diciamo permanenti. Si dice non è il sindaco, no, ma il sindaco dice non entrano soldi diretti al comune, come, però c'è l'indotto, non ci sarà l'addizionale IRPEF. Guardi, il federalismo già si sta prefigurando come una grande rischio di aumento, che ne dicesse il professore, che ha perfettamente ragione, ma qui siamo di fronte al rischio, e questa tassa di soggiorno si colloca in questo quadro, che questo federalismo di cui stiamo parlando si concluderà con un risultato altro che zero, o addirittura meno zero, come qualcuno vorrebbe dire, ma più uno, più due, più tre. Nelle tasche di chi, dice Martinello? Nostre. Stiamo parlando di addizionali comunali, municipali, tasse sugli affitti. Perché non fai il confronto con le altre città europee? Ma cioè, il confronto va fatto sulla alla fine europee, sul risultato finale, come diceva di anche l'ascoltatore europee di Roma. In ogni caso, io mi devo fermare qui per il momento, ma staremo a vedere, perché torneremo su questo tema, come vedete, accende gli animi, e la tassa non è ancora, è allo studio, ma nel federalismo municipale. Vedremo prossima settimana, la settimana decisiva. Il sindaco Chiamparino, che è anche presidente dell'ANCI, ha detto la vogliamo, ma poi la deve decidere ovviamente il governo. Staremo a vedere. Intanto grazie al sindaco di Pisa Filippeschi, grazie a Carlo Lottieri e a Paolo Martinello di Altro Consumo. Ci fermiamo qui anche per questa settimana. Antonella Migliaccio, non mi ricordavo il nome, che devo fare? Antonella Migliaccio in redazione, Caggiafà, e Peter Bescapè in regia, e do la linea a Oscar Giannino. Noi ci troviamo lunedì mattina a 7:20.